Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Prima comunicazione di servizio alle 16, alle 15, dopo il programma non andrà in onda il GR per questa volta, in questa occasione causa assemblea sindacale. Lo dovevo dire, l'ho detto, non avrei avuto nemmeno tanta voglia oggi, zero voglia per la verità, di parlare di calcio, avrei preferito parlare di molte altre cose. Compresa l'atletica, la vigilia degli europei, soprattutto di Tour de France, ma questo lo faremo anche perché oggi c'è la montagna sacra, c'è il Tourmalet e c'è un altro episodio di quelli destinati a far discutere un sacco, perché è successo che Sanchez è caduto, Samuel Sanchez, campione olimpico e terzo in classifica se non ricordo male, è caduto. Contador e Schleck volevano fermare il gruppo, tra l'altro caduta piuttosto seria, volevano fermare il gruppo per aspettare Samuel Sanchez. Invece Carlos Sastre ha parlato con Contador, ha detto non mi importa, io vado, ed è partito alla caccia del gruppetto dei fuggitivi, la corsa è ancora tutta da fare. È dunque partito e non ha aspettato nessuno, a lui si sono accodati gli altri. Sanchez ha perso 3 minuti, ha difficoltà respiratorie, insomma una caduta piuttosto seria. Dunque c'è quest'altro episodio che mi sembra ben più grave di quello della famosa catena di Contador, di Schleck e dell'attacco di Contador dell'altro giorno che ha determinato questa maglia gialla. Come detto, poi parliamo di Tour de France e di tutti questi argomenti. Dicevo che oggi avevo zero voglia di parlare di calcio, però lo farò perché sennò poi mi accusate di essere retrogrado, secondo me in maniera abbastanza ingiustificata, perché non voglio la moviola in campo. Quindi oggi vorrei parlarvi dell'argomento di giornata, che è quello del sì di Blatter, insomma concessione minima mi pare da parte di Sepp Blatter ai problemi che sono stati nell'ultimo mondiale. Ha detto sì al giudice di fondo campo, all'arbitro d'area, all'arbitro di porta, chiamatelo come volete, ancora non ho capito bene quale sia il suo nome. Mi sembra però che 6 arbitri per una partita di calcio siano un'enormità, e poi crea certamente, secondo me potrebbe creare, adesso creerà, perché questa sperimentazione è stata varata soltanto per la prossima Champions League, è stata già sperimentata in Europa League, non rientrano in questo discorso almeno le partite delle nazionali, quindi un calcio a 2 velocità almeno dal punto di vista arbitrale. Chiedo tutto questo a Massimo Chiesa, ex arbitro, ora mio amico e opinionista. Ciao Massimo, grazie. Ciao Carlo, un saluto, grazie per l'amico, contraccambio, come stai? Massimo, mi accusano di essere retrogrado perché io la moviola in campo non la voglio, e quindi ma va in pensione, sei retrogrado, bevi pensione se volete, però insomma la moviola in campo non mi piace, l'arbitro di porta, ma sì, proviamolo, sì. A me sarebbe piaciuto di più il pallone intelligente, perché quello sì, secondo me è una cosa da evitare, quando il pallone è entrato bisogna dare il gol, punto e basta. Non servono, Carlo, perdonami, gli arbitri di porta per vedere se un pallone è dentro o meno, anche perché uno può avere un battito di ciglia e non vederlo e il problema torna ad essere lo stesso. Io, e chiaramente non per piaggeria o per amicizia, l'opinione mia tu la conosci da tempo, sono contrario, cioè non sono particolarmente entusiasta, ecco, contrario alla tecnologia tipo moviola, ma non particolarmente entusiasta per quello che riguarda questo concetto o questo esperimento delle arbitri di porta, per 2 motivi, anzi 3. Il primo sicuramente, innanzitutto dobbiamo chiarire, non saranno mai degli arbitri, ma saranno degli assistenti, per cui è un discorso di collaborazione, perché trovare altri 2 arbitri da mandare, cioè fare le partite in 5, come sentivo stavi accennando tu, eccetera, sì, diventa un problema anche di risorse. In 5 più il quarto uomo. Esatto, più il quarto uomo, diventa un problema di risorse, diventa un problema di costi, perché una cosa che non viene detta è che i costi arbitrali vengono pagati dalle federazioni, dalle leghe, non dalle federazioni, sì, scusami, dalle leghe, che non sono molto favorevoli a questi esperimenti, e c'è sempre stato un certo tipo di ostracismo. Però, benedetti signori, voglio dire, qua c'è un problema di fondo. Per evitare le problematiche legate a Lampard, cito Lampard per dire il gol non assegnato durante i mondiali, basta un microchip dentro il pallone, certo, e dei sensori ai pali delle porte, e il problema è risolto, come è già stato risolto in altri sport. Perché non si vuol fare? Non lo so, forse perché funziona. Forse perché funziona, ragione, dici bene Carlo, sono assolutamente d'accordo con te, forse perché funziona. Allora questo non si pensa di metterci dei giudici di porta o degli arbitri di porta, già anche il discorso della traduzione è completamente fuorviante, saranno degli assistenti, tra l'altro ci sarà da pescare vari assistenti, a parte poi finché gli esperimenti si fanno in Messico piuttosto che in questi campionati minori, la cosa mi lascia sempre perplesso e sposo il concetto tuo del calcio a doppia velocità che non può mai funzionare. Il gol si può evitare, cioè la problematica del gol non gol si possono evitare con questo inserimento di una tecnologia elementare a questo punto. Nel 2010 un microchip per un pallone e dei sensori alla porta risulta essere una tecnologia elementare. Certo. Il discorso della moviola in campo non mi convince per tutta una serie di ragioni, l'abbiamo già affrontato in passato. Sì, come no. Una miglior collaborazione, una maggior disponibilità, questo è quello che serve, un'accettazione migliore degli errori, non errori che ti fanno pensare, e mi viene in mente Ovrebo o Ovrebo, che dir si voglia, che è in odore di incarico UEFA. Cioè, sono questi i segnali sbagliati, sono questi i segnali veramente sbagliati. Hai ragione Massimo, hai ragione. E sempre su questa storia del giudice dell'arbitro di fondo campo, oggi ho letto su Repubblica tra l'altro un'intervista molto sensata di Nicola Rizzoli che lo ha sperimentato in Europa League, e che dice, cosa di estremo buon senso, ci sono delle difficoltà, specialmente se l'arbitro ha visto una cosa e l'assistente un'altra, insomma sono tanti occhi che vedono le cose da prospettive diverse, poi però che decide è l'arbitro, quindi una moltiplicazione degli assistenti, e poi in quel caso se non c'è accordo che si fa, e Rizzoli dice, si respira la partita, la situazione, questo sì che mi sembra un discorso corretto. È un discorso corretto, se fosse stato applicato durante gli ultimi mondiali Rosetti probabilmente avrebbe fatto la finale. Sono riusciti a far confusione anche su un'azione che avevano rivisto, non hanno avuto il coraggio di annullare un gol che andava annullato e non si sono trovati in due con l'aiuto poi del quarto uomo. E ci siamo giocati, parlo di Italia, poi che la meritasse o meno è un altro tipo di discorso, però da italiano a me, se un arbitro italiano avesse diretto la finale, mi avrebbe fatto sicuramente piacere. Ci siamo giocati una finale per un discorso del genere, per cui aumentiamo, mettiamoci un altro giudice di porta, mettiamocene ancora uno vede una roba, uno ne vede un'altra e non siamo in grado di prendere la decisione giusta. Certo. Non lo so. Adesso aspetto gli ascoltatori che mi daranno del retrogrado, però li accolgo volentieri. Ci daranno dei retrogradi come se tecnologia e modernità fossero la stessa cosa, come se il calcio avesse bisogno della certezza del diritto. Continuo a ripetere che il calcio non è uno sport, che può sposarsi con la certezza del diritto ed è bello così. 800 24 00 24, numero verde. Massimo, in concreto questo giudice di porta che cosa fa? Ma in concreto questo giudice di porta dovrebbe vedere, uno dei compiti principali è quello che viene per il quale viene depauperato un eventuale utilizzo della tecnologia, cioè pallone dentro o fuori, e questo non avrò, e anche come stavi dicendo tu, non avrò mai la certezza. No, mai. Mi si può distrarre anche il giudice, se gli scoppia un petardo vicino, questo non guarda se il pallone è dentro o fuori. No, ma Massimo, tu sei stato arbitro ad alto livello, quando un pallone è a mezza altezza, come fai onestamente e umanamente a capire se è entrato tutto o è entrato il 98% della superficie, come fai? Non migliora sicuramente la situazione. Una mano, come diceva giustamente Nicola Rizzoli, nei contropiedi può dartela, però c'è già un assistente che, se tenesse la posizione corretta, come avrebbe dovuto fare Airoldi, avrebbe visto che era fuori gioco. È un problema di posizione, cioè un giudice di porta cosa può vedere? Nel fallo da ultimo uomo non è, il fallo da ultimo uomo non rientra sicuramente nelle sue competenze, perché c'è un guardaline, c'è un assistente ufficiale, c'è un assistente laterale, chiamiamolo così, di conseguenza anche in questo l'aiuto. Fallo di mano, però ci sono un arbitro, dovrebbero esserci perlomeno un arbitro e un assistente per questo. Mettiamo un'aggiunta in più: il giudice di porta cosa può dare a me arbitro, definiamomi centrale, la sicurezza che era volontario non me la darà mai, se non l'ho visto non me la darà mai. Sì. Questo che secondo me è un po' cervellotico, cioè io sai cosa penso Carlo? È che questi mammut, perché parliamo di un cimitero di elefanti, sì, neanche di elefanti, che sono ancora vivi e non sono ancora estinti. Di mammut che sono estinti. I mammut sono quelli dell'International Board, che si riuniscono una volta ogni tanto a Cardiff, rappresentando peraltro delle nazioni che portano soltanto dei voti nei quali i campionati non hanno un minimo di livello, perché dovrebbero, il grosso pubblico dovrebbe sapere anche chi sono questi signori, che il più giovane ha 80 anni credo, una roba sì, del genere, sì, che decidono delle sorti del calcio. Cioè allora cosa, qual è il problema? Blatter aveva promesso che avremmo parlato della tecnologia, è già slittata, ci dà due piccoli due compresse, un filo edulcorate, cioè esatto. Abbiamo i giudici di porta, così perlomeno io i miei voti me li sono presi, faccio un altro mandato, la geopolitica sta andando avanti così, le nazioni anche forti calcisticamente come l'Italia continuano a beccarsi ovrebo vari, a perdersi magari un ottavo di finale immeritatamente, e poi niente, speriamo invece che adesso con l'avvento di Collina a livello UEFA, anche da un punto di vista di designazioni, ci sia un po' più di trasparenza o si possa migliorare. Di fatto l'Europa ha avuto la finale del mondiale che Webb ha gestito in una certa maniera, non so cosa ne pensi tu, io l'avrei data a l'Uzbeko, che anch'io. Mi è sembrato, è stato l'arbitro il migliore in assoluto, assolutamente, rivelazione del mondiale l'Uzbeko, e la meritava su tutti i fronti, su tutta la linea, però così è andata, Webb si è preso questa finale mondiale, l'ha gestita non bene, e vediamo cosa succede, se nella prossima finale mondiale avremo il giudice di porta, questo lo scopriremo, certamente agli europei non ci sarà, anche perché le modifiche nel calcio vanno di pari passo con gli ottantenni dell'International Board, cioè molto lentamente. Massimo, io ti ringrazio, ci a presto, un abbraccio. È stato un piacere, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie a Massimo Chiesa. Dunque comincio volentieri a parlare con gli ascoltatori, 800 24 00 24, più tardi il tour, più tardi anche i motori, più tardi magari anche i pettegolezzi, visto che non ci sono soldi, quindi in questo momento nemmeno mercato, anche se leggo delle agenzie, oggi in Spagna si scrive che Mourinho vorrebbe Ibrahimovic e potrebbe dare al Barcellona Kakà, questa è una suggestione interessante, però la lascio per il momento alle cronache della stampa spagnola. La nostra stampa invece insiste sul gossip da spiaggia, che mi sta anche abbastanza divertendo, con Irina che non sposa più Cristiano Ronaldo, Zaia che dice che Ribéry e Benzema erano anche tirchi, ne ha preso 700 euro da Ribéry e 500 da Benzema, Ronaldinho che va con l'ex di Adriano, robe da spiaggia, ma anche più interessanti secondo me dei discorsi sulla moviola. Anche se c'è chi scrive: il vostro snobismo è terrificante, senza tecnologia non si va da nessuna parte, siamo rimasti al 1966, e invece con la tecnologia dove andiamo, Max? Dove andiamo con la tecnologia? Alessandro da Modena. Sì, buongiorno. Una buongiorno. Curiosità, no? Sì. Qua si parla di microchip, di sensori terreni inclinati, no? Allora io mi faccio solo una domanda: se tutto il mondo in diretta vede un pallone che entra e 80.000 persone da un maxi schermo vedono con un fermo immagine che una palla è dentro, non sì. È semplice che l'arbitro con un'occhiatina faccia quello che tutti hanno visto, cioè convalidi un gol, non è una cosa secondo me che c'è da discutere, la palla dentro e palla fuori, cioè l'Inghilterra segna un gol, la palla sì. È dentro un metro, tutti hanno visto la cosa, l'arbitro regolarizza quello che tutto il mondo ha visto. Dopo è chiaro che i maxi schermi non è che uno li deve mettere nei tornei di scapoli ammogliati, insomma, allora, però nelle file delle partite europee. È chiaro, insomma, Alessandro, però quello è un caso unico e macroscopico, no? È chiaro che non si può in quel caso dire: ah, l'ho visto sul maxi schermo e allora lo convalido, punto e stop, una tantum. Bisogna introdurre delle regole che siano valide per tutti e per tutte le partite, almeno a quel livello, e questa è un'altra perplessità che ho. Allora, a quel livello sì, e in altri campionati o tornei no. Quello è un caso eclatante e clamoroso, no? Però ce ne sono molti altri nei quali, nonostante le mille ripetizioni di replay televisivi, non siamo mai certamente convinti, non abbiamo mai la certezza che il pallone sia entrato o no. Dunque da qui la necessità di fare una regola che sia uguale per tutti, e secondo me il chip nel pallone, anche se qualcuno scrive che è stato provato e non funzionava, chi l'ha detto che non funzionava? È una tecnologia molto banale, non può non funzionare, non è possibile, e secondo me anche a costi piuttosto contenuti. Dunque è una tecnologia ampiamente realizzabile, e quella sì risolverebbe l'unico dubbio che merita di essere risolto, almeno dal mio punto di vista, con ausilio tecnologico. Vincenzo Ragusa, buongiorno. Salve, buongiorno. Senta, volevo dire una cosa sulle tecnologie. Sì. Pensavo questo, ma in cabina di regia, a vedere le moviole, mettiamo 12 opinionisti di controcampo, che ci mettono 3 ore a decidere su un episodio in ogni puntata. Sì. Mettiamola. Cioè, detto ciò, volevo dire una cosa sul Milan e volevo un suo parere. Prego, prego. Io non so i tifosi milanisti o comunque la dirigenza cosa pensa di noi tifosi milanisti. Cioè, io credo che Berlusconi in questi anni li abbia messi veramente i soldi. Il problema è un altro. Che è anche vinto, è anche vinto, anche vinto moltissimo. È anche vinto. Io però ho un mio personalissimo parere sulla dirigenza, che è quella che ha dimenticato o non è andata appresso al calcio moderno, che hanno dimenticato a fare i dirigenti, perché questi signori hanno rinnovato a tutti i contratti. Secondo me la presidenza, quella che sgancia veramente i soldi, si è ritrovata con degli ingaggi pazzeschi, non riesce a rinnovare la squadra, personaggi come Dida, Calazze, Oddo e così via non hanno mercato perché non li prende nessuno e non vanno via loro. Ma dove li trovano i contratti che gli ha rinnovato il Milan? No, no, per di più, io speravo che nel 2011, scadenza di molti contratti, questi personaggi andassero via. Vedo che mi rinnovano Oddo dopo la bellissima partita di Palermo. Sì, spalmato, che ho visto, è stata una vergogna. Spalmato, me lo rinnovano, spalmato. Ma questi non capiscono niente più di calcio. Ma cosa stanno facendo? Hanno allungato semplicemente una stagione senza, in quel caso, per la cronaca, mettere altri soldi, che ha spalmato su 2 anni un contratto che era ancora con validità di un anno. Ma sì, Vincenzo, insomma, il discorso è questo: i dirigenti del Milan comunque insomma seguono le direttive del presidente, almeno per le questioni essenziali, i giocatori più importanti. Hanno per anni fatto un lavoro e adesso dovrebbero farne un altro molto diverso, no? Quello di sondare con più attenzione il mercato, quello di cercare giocatori diversi, insomma è un mestiere profondamente diverso, senza troppi soldi nella borsa. Non so se sia una questione di inadeguatezza della dirigenza, in parte anche sì, nello svolgere, la dirigenza attuale nello svolgere questo lavoro che da anni non fa Galliani e Braida, però io credo che in questo momento Berlusconi non possa permettersi di dire la verità sul Milan, e cioè che non è una squadra competitiva né in Italia né tantomeno in Europa. Io credo che i tifosi del Milan, se il presidente potesse dire questa squadra è finita, adesso per 5 anni non vinciamo niente ma ci divertiamo, inseguiamo altre idee, facciamo una squadra di giovani, facciamo una squadra che internazionale, avesse un'idea diversa, differente, facciamo una squadra che segnerà molto, che butterà sul campo tutto l'agonismo possibile, insomma ci divertiamo senza avere traguardi particolari, io credo che di fronte a una verità di questo tipo nessun tifoso del Milan che con la pancia piena da 25 anni di successi avrebbe molto da ridire. Purtroppo invece siamo in questa situazione un po' pelosa, per cui si deve dire il Milan è competitivo però non prendiamo nessuno, Ronaldinho è il più forte giocatore di tutti i tempi, ma poi è difficile trovare anche quelli che ci credono. Fabio, Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Forse io mi sentirò un po' vecchio, ma al contrario dell'ascoltatore che le ha scritto, io sarei rimasto volentieri al calcio del 1966. E a proposito di questo volevo conoscere la sua opinione sul veramente la cosa assurda di chi propone la moviola in campo. Cioè, dopo che noi assistiamo domenicalmente, non solo la domenica, a quegli indegni dibattiti dove ognuno di gente preparata e meno dice la propria seduto comodamente su una poltrona e non finendo per comunque fare confusione, ognuno, cioè, su un'azione che è da gol, non gol, fuorigioco, non fuorigioco, dice la sua opinione. Immaginiamoci cosa succederebbe con la moviola in campo. Ma dove vogliono portare questo calcio? No, vabbè, ascolto la vostra opinione per radio. Grazie a lei Fabio, la mia opinione è quella di prima, cioè non è cambiata, qui è semplicemente questione di gusti, cioè chi si riterrebbe maggiormente tutelato da uno strumento come la moviola, che peraltro è, ripeto, parziale. Io non sono mai stato un grande osservatore della moviola perché è una cosa che a me non interessa nella maniera più assoluta, quindi la domenica sera preferisco altri programmi, altre trasmissioni televisive, altre cose da fare. Non mi interessa la moviola, non mi ha mai portato nulla di quella, anche perché è una visione molto parziale del calcio e dello sport in generale, per questioni di spazi, di spinte, di distanze, per questioni fisiche anche. Dunque quello che vediamo a rallentatore non è quello che succede nella realtà. Mi piace invece l'impiego, sono d'accordo sull'impiego di un ausilio che possa risolvere, come ad esempio accade nella pallacanestro, questioni geometriche, come sarebbe il cipro nel pallone del calcio, cioè tiro, il piede era sulla linea dei tre punti o era dietro la linea dei tre punti, il tempo era scaduto o non era scaduto. In quel caso basta un'occhiata e si risolve il problema, non c'è nulla di male e non si entra nella discrezionalità dell'arbitro. Quando si comincia a dire era fallo o non era fallo, allora non ci sto più. Mario, provincia di Macerata, buongiorno. Mario, provincia di Macerata, ci ha lasciati. 800 24 00 24, numero verde. Subito dopo questa breve pausa per la borsa riprenderemo il discorso. Tra l'altro io ho un messaggio che riguarda una delle cose che vi volevo fare ascoltare. Lori da Milano scrive: la bella notizia è il ritorno di Zeman, uno dei pochi che si merita l'etichetta di allenatore. Vedrete che da questo Foggia giovane qualcuno farà carriera. Cara Lori, subito dopo la pausa che ci aspetta, le faccio sentire un'intervista che Dario Ricci ha fatto ad uno dei grandi protagonisti del Foggia di Zeman, e cioè Beppe Signori. Chiaro che a una soluzione non ci arriviamo, no? Perché ognuno ha i suoi gusti ed è giusto che li abbia e li manifesta. C'è chi scrive: lo scudetto vinto da Fortitudo nel 2005 grazie all'Instant Replay credo sia l'esempio migliore di come, con limiti ben precisi per quanto riguarda i casi in cui farvi ricorso, la tecnologia possa dare una mano. Riccardo da Torino: sì Riccardo, sono d'accordo, infatti a me piace l'Instant Replay del basket, anche se non mi piace il fatto che venga usato soltanto nei playoff, perché si creano anche qui due velocità tra stagione regolare, Eurolega e playoff, scudetto, quarti di finale, semifinale, finale, insomma troppe disparità di trattamento che a me non piacciono. Sono d'accordo comunque con la filosofia dell'Instant Replay, che poi non è molto diversa da quella che sarebbe il chip nel pallone. La moviola vera e propria, che è quella che siete abituati a vedervi in televisione la domenica sera, con grande noia secondo me, è un'altra cosa. Dunque, io direi che vi faccio sentire, come promesso, perché ogni promessa è un debito, a proposito del Foggia che ieri ha riabbracciato con un calore incredibile Zdenek Zeman, questa intervista di Dario Ricci a Beppe Signori, poi parliamo di tour. Ma io spero e mi auguro che si riescano ad ottenere gli stessi risultati che hanno ottenuto con noi. Loro sono stati due grandi protagonisti per aver allestito, insieme a Peppino Pavone, aver allestito una squadra che poi ha dato tante soddisfazioni ai tifosi. Credo che ci siano tutti i presupposti perché questo possa riavvenire, e quindi creare e ridare entusiasmo a una città che merita delle categorie superiori. È importante anche, credo, il rientro nel calcio che conta di Zdenek Zeman, no? Penso che lui abbia pagato più di tutti determinate situazioni, quindi sono contento, perché comunque è un allenatore che mi ha dato tanto, che ha dato tanto anche al calcio italiano, pur magari non riuscendo a vincere niente, però credo che le sue squadre, vedi Foggia degli anni 90, insomma, viene ancora ricordato per il gioco che faceva, e quindi questo è grande merito, è suo. La partita indimenticabile di quel Foggia, quella che ancora vi raccontate quando vi ritrovate a tavola intorno a una bottiglia di vino? Ma se devo essere sincero, è stato un Foggia Triestina 5-1 quando siamo andati in Serie A, perché quello è quello che ci ha permesso poi, che ci ha aperto la strada a tutti di farci conoscere e poi di diventare, insomma, giocatori conosciuti in Italia e nel mondo. Quindi quella non me la scorderò mai. In questo clima di grandi ritorni di Amarcord, dovesse squillare il telefonino di Beppe Signori e dovessero richiamarla da Foggia, quale sarebbe la risposta? Che la carta d'identità non è più quella di 20 anni fa. E quindi ci sarebbero delle difficoltà oggettive per ricominciare a giocare. Beh, ma magari con un ruolo dirigenziale. Ma no, adesso io ho appena fatto e ottenuto il patentino di prima categoria da allenatore, quindi il mio obiettivo sarà quello di riuscire ad allenare. E allora come assistente di Zeman? Beh, perché no? Per cominciare sarebbe comunque una bella strada. Poi è ovvio che comunque lui ha già su tutti i suoi collaboratori, e quindi è giusto che vada avanti per la sua strada e io per la mia. Però mi pare una candidatura anche legittima quella di Beppe Signore al Foggia, che è tornato in mano a Zeman. Salve, oggi fate il collegamento col Tour de France, ma se Contador dovesse vincere il Tour con meno di 31 secondi di vantaggio su Slack, che figura ci farebbe dopo l'episodio della catena saltata? Lo scrive Lorenzo da Firenze. Certo, facciamo collegamento col Tour de France, vero Pieraugusto Stagi? Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Dunque, il giorno del santuario, il tour affronta il suo santuario incappucciato dalle nuvole e dove fa un freddo bestia, mi dicevi. Speriamo innanzitutto che non venga profanato il santuario. Sì, qui fa freddo, piove, brutto tempo, su in cima ai 2115 metri ci sono 2 gradi e si è scatenata la bagarra, fuga di 7 impavidi coraggiosi. All'inseguito di questi 7, a una 40 di secondi, c'è Carlos Sastre, vincitore del Tour de France, che ha in pratica all'incirca quasi 8 minuti di vantaggio sul gruppo maglia gialla. A Sastre ha un distacco, è 15° in classifica generale, a 9 minuti e 02, quindi stiamo entrando in zona maglia gialla virtuale. Quindi magari tra i due litiganti il terzo gode, speriamo comunque che ci sia spettacolo, come sì, si aspettano tutti gli appassionati di ciclismo, me compreso, perché fino ad oggi, spettacolo, Carlo, molto poco. Tour di basso profilo. Basso profilo, io non accuso assolutamente gli organizzatori, perché gli organizzatori hanno disegnato un ottimo tour, un bel tour dove c'erano tante tappe molto interessanti per corridori completi, tappe folli come quella di Arenberg, tappe difficili come quelle del nord col vento, tappe di media montagna, tappe in arrivo, tappa per attaccare, tappe per velocisti, che devo dire che forse gli unici che hanno fatto veramente la loro parte sono stati i velocisti. Al momento comanda Cavendish 3-2 su Alessandro Petacchi, l'altra volata a Torushov, però chi è mancato sono un po' gli uomini di classifica. Io credo che, spero di essere smentito oggi e voglio fortissimamente essere smentito, credo che questo sia il problema del gigantismo del tour, della paura del tour. Qui ci sono corridori che se si piazzano ottavi sono convinti che se arrivano a Parigi con un ottavo posto salvano la stagione, sì, salvano la squadra, salvano lo stipendio, e dire sono arrivato al tour è il massimo. Così quello che è arrivato quinto, così quello che arriva sesto, così quello che arriva nei primi 10. Certo. E quindi la gara si blocca ed è il tour, la colpa del tour è il gigantismo del tour che veramente condiziona troppo. Al Giro d'Italia si osa di più. Se sei nono uno dice ma non al Giro d'Italia, e arrivare 20° è uguale. E quindi rischi, cioè cerchi di far saltare il banco. Al tour questo non succede più, quindi ci si controlla per il primo e il secondo posto, si controlla il terzo posto e si arriva ormai all'esasperazione di controllare il quarto, il quinto, il sesto fino al 10° posto. Spero oggi che i Menchov, i Lepaimer, il Carlo Sastre lo sta dimostrando, però Carlo Sastre è 15°. Senti, ma leggevo prima un'agenzia secondo la quale, poi ho anche Piero da Brescia, Andrea dalla provincia di Modena, Piero e Augusto, che vogliono intervenire nel discorso ciclistico. Leggevo prima un'agenzia secondo cui Sastre è partito dopo che è caduto Samuel Sanchez, dopo che Schleck e Contador volevano fermarsi per aspettare Sanchez, o quantomeno non volevano andare all'attacco, mentre Sastre ha parlato con Contador e ha detto io vado. È andata esattamente così, l'ascoltatore ha riportato fedelmente la cosa, anzi ha aggiunto semplicemente a Gislec che nel discorso non c'entra. Samuel Sanchez purtroppo è caduto, una caduta banale, è caduto da solo, ha preso una veramente una brutta botta, si è anche temuto al peggio perché non si muoveva, probabilmente il contraccolpo, una botta al costato, è rimasto senza respiro, ma poi sono dei facchini, si è rialzato e ripartito. La notizia è arrivata immediatamente in testa al gruppo, Contador e l'Astana si sono messi tutti in testa per cercare di bloccare e rallentare l'andatura, anche perché la gara non era, come si dice in gergo, scoppiata, sì, non era ancora incominciata perché non avevano ancora iniziato la prima salita. Carlos Sastre invece è andato in testa al gruppo, è stato richiamato da Contador che gli ha detto dove vai, e lui ha detto guarda a me non mi importa niente, io vado, ed è andato, è partito, quindi la sua fuga è iniziata esattamente così, alla faccia del fair play. Ma d'altra parte qua stiamo annotando più giorni e azioni di fair play che di attacchi veri e propri. Io francamente a questo punto siamo alla 17ª tappa, siamo nella tappa, vorremmo anche vedere correre, vorremmo anche vedere correre, vedi, tra un po' ognuno si alza, scusate mi sono dimenticato di leggere il giornale e si ferma. Sembra una partita del campionato italiano con la palla continuamente spedita fuori dal campo. Esatto, fino a prova contraria c'è un arbitro e c'è anche nel ciclismo, si chiama giudice di gara, so anche il nome perché è un italiano, si chiama Francesco Cenere, e spetta a lui o tutt'al più al direttore di corsa, che è Christian Prudhomme, che può andare dal presidente di giuria a chiedere, a dire: guardate, questa tappa va neutralizzata perché c'è la grandine, perché c'è la neve, perché le strade sono scivolose, per l'incolumità dei corridori. Ma se non prendono l'iniziativa loro, è veramente ridicolo, per non dire stucchevole, quando i corridori si mettono a fare loro melina. Quindi ritorno anche a bomba la famosa tappa, quella della discesa dello Stoccavo, resa scivolosa, quando i fratelli Schleck erano a oltre 4 minuti da Contador, e sottolineo da Contador, e sottolineo anche da basso, e sottolineo da Mencio Vegesing, e Cancellara, compagni di squadra, che in quel giorno era in maglia gialla, compagni di squadra dei fratelli Schleck, si mise in mezzo, in testa al gruppo, e convinse tutti a rallentare e aspettare che il gruppo si riformasse. Sì. Poi, se perdi il tour perché hai rallentato lì, magari come è successo a Ulrich, l'anno dopo ti trovi giù dalla bicicletta perché nessuno ti vuole più. No, ma questi sono discorsi molto interessanti, anche piuttosto lunghi. Bravissimo, voglio Carlo, sentire, perché così è andata, infatti. Voglio sentire gli ascoltatori. Piero da Brescia. Sì, beh, buonasera. Ringrazio il suo interlocutore che mi ha bruciato proprio la domanda che volevo fare. Nel senso che mi sembra quasi impossibile che un corridore decida le sorti della corsa. A me dispiace quello che è caduto, a me dispiace quello che gli è caduto la catena, ma deve essere il giudice di corsa che decide se nella fattispecie deve fermare perché compromette la tappa, oppure far andare avanti la corsa. È come se in Formula 1 o in MotoGP, adesso che Rossi era uscito perché si era fatto male, correvano oppure fermavano tutto. Cioè, è una cosa inammissibile. Purtroppo è caduto, purtroppo è scesa la catena. Però sì, si va avanti. No, ma io ripeto, io non l'ho fatto anche per tutti questi giorni. Non contesto l'azione di Contador che ha deciso di fare così, e volendo può anche aver fatto bene. Non lo so, questo potete anche valutarlo voi, però che non mi è piaciuto, e lì certamente non ha fatto bene, è stato quel balletto molto stucchevole delle scuse, del non me ne sono accorto quando quella era una balla, e poi delle scuse, poi torniamo amici, facciamo la... Ma per piacere, ma quello a me non piace nello sport, questa mancanza di personalità in fondo. Piero Augusto. Forse hai ragione, questa ipocrisia, no? Sì. Perché poi in realtà sono solo scuse di facciata, che sono più, come hai detto tu, fastidiose e stucchevoli dei begli attacchi frontali, anche un po' bastardi, perché comunque lo sport e la competizione ti porta a esserlo, perché è così. Anche quando si gioca papà contro figlio, il papà non ci sta a perdere col figlio, magari gli fa anche lo sgambettino. E allora, finché si fanno delle robe civili, ci si ride su, e comunque fa parte dello sport. Lo sport è, se no, cioè, se ne vogliamo la lealtà. La lealtà nello sport io non l'ho mai vista. Se si può essere un pochino furbi, lo si è. Tanto è vero che parlavamo di calcio, nelle scuole calcio ti insegnano, questo non dico che è giusto farlo, anzi, tutt'altro, però lo si fa. Citando prima, parlavamo di Valentino, ma allora arriviamo all'assurdo che Valentino Rossi, che è tornato a correre dopo 39 giorni dall'incidente, con una placca di 27 centimetri nella tibia e perone, per ricomporre tibia e perone, e allora era menomato, allora che Stoner è stato una carogna a insistere fino all'ultima curva e a rubargli il terzo posto. Sì. Ha fatto il suo dovere, perché? Perché Valentino Rossi ha accettato la sfida, e la sfida si fa. Sì, poi infatti Valentino Rossi, da sportivo qual è, non ma ha certo, detto ma ci mancherebbe altro, io avevo la gamba rotta, ma io ero menomato. Ma ci mancherebbe altro, mi fanno arrivare davanti perché sono caduto. Non stai dicendo in terra. C'è chi peraltro da giorni mi chiede solo una battuta sulla scelta di LeBron James. Domani, ve lo prometto, ne parliamo a lungo, non è ancora ora di Palla Spicchi, che ricomincerà a settembre, però domani parleremo anche di basket e aspetto un ospite. Domani vi dico chi, non oggi, domani. Su LeBron cosa volete che vi dica? Secondo me è un altro esempio della sorprendentemente poca personalità dei fenomeni sportivi del 2010, da quelli dagli assi del calcio che steccano al mondiale, a LeBron James che si va a cercare compagnia per vincere un anello andando in casa di altri. Poca personalità, come quella di forse anche di Contador e di Schleck, che continuano a chiedersi scusa. manco fossero fidanzati. Andrea. Buongiorno gente, grazie dell'ospitalità e forza SPAL, visto che non lo dice mai lo dico io. Oh, benissimo. Senta una cosa, io in realtà in pochi secondi avete detto tutto quello che volevo dire io. Io sono un podista e penso che se ci sono tutti questi problemi sullo sport dovremmo solo correre a piedi, così non si rompono macchine, non si rompono biciclette, non si rompe niente, chi ha fiato va avanti, chi non ne ha si ferma. Sì, poi ieri le dico Andrea la prenderà col meccanico, voglio dire. No, con se stesso, come le spiegherà tra un attimo per Augusto Stagi, tra l'altro. Andrea, volevo solo dirle che negli ultimi giorni ho ricevuto anche messaggi a proposito del podismo e della medaglia d'oro vinta da Baldini ad Atene dopo quello che era successo al suo avversario. Cosa doveva fare Baldini? Fermarsi lì e aspettare che quello si rialzasse in piedi, che vincesse magari un terzo? Cose, quella corsa lì, cioè, mi dispiace che sia successo quell'episodio, perché dato che l'ho vista la corsa, il brasiliano si sarebbe fermato comunque, l'avremmo preso. Per cui peccato che l'abbiano fermato prima, perché sarebbe stata ancora più soddisfazione superarlo. Però insomma, voglio dire, lo sport è questo, scoppia una gomma in Formula 1, cioè Valentino si rompe la gamba, certo. Chi utilizza mezzi oltre la propria persona sa che ci può essere anche un problema tecnico, chi va avanti va avanti, ha ragione lei, però le scuse non servono, chi va avanti deve andare avanti per vincere. Bravissimo. Sono arrivato primo e basta, sono arrivato primo, se poi un altro lo fa a me lo accetto, è questo il discorso che... Proprio, guardi, ieri Contador ho avuto occasione di vedere due secondi il tour e avevo avuto un problema sui pedali, c'è un meccanico svoltato fuori dalla macchina col cacciavite che gli metteva a posto i pedali, lui era rimasto dietro gli altri, ieri è toccato lui, ha fatto due pedalate e si è riunito al gruppo. Cioè, ti tocca Scaloni, speriamo che non tocchi, insomma, sì. Lo sport è questo. E a me, lo sport è questo, sono d'accordo, a me è venuto in mente anche Pantani quando con un incidente simile, no, a quello di Schley, quando gli scese la catena a Pampeago, no, Pier Augusto? No, a Europa. A Europa? E poi, Europa. E poi riprese tutti. A Europa. Quando lui recuperò 36 corridori uno in fila all'altro. Che non si erano fermati in quell'occasione. No, anzi, a manetta. Senti, a manetta. Lui rabbioso risalì in bicicletta e a 1-1 li riprese. Sì. Fu una delle imprese forse più incredibili di Marco. Volevo che tu spiegassi perché non è stata solo sfortuna quella di Schleck e di quella catena. Ma non è stata solo sfortuna, perché poi ho parlato anche con il meccanico di Sasso Bank, la formazione danese diretta da Bjarne Riis, peraltro poi l'ha spiegato lo stesso Bjarne Riis, perché ha commesso un errore tecnico proprio Andy Schleck. Lui ha preparato la gamba in tensione e nel momento di partire, invece di partire con un rapporto innanzitutto più agile e soprattutto con la catena in asse, cioè dritta, è partito con un rapporto da salita con 53-16, chi non sa dice che comunque la catena lavora storta, lì ha preso probabilmente anche un rapporto troppo duro, ha preso magari anche un sassolino, gli è rimbalzata la bicicletta perché era troppo duro, gli è saltata la catena e la catena è andata a incastrarsi proprio in mezzo tra il blocco centrale e il doppio plateau, e lì dopo ha dovuto staccarla con le mani però il pasticcio l'ha fatto lui, perché non ha usato bene il rapporto nel momento giusto per scattare. Quindi un errore tecnico, come potrebbe fare un pilota di Formula 1 che scala male una marcia, che arriva troppo lungo ad una déjicane, come potrebbe fare Valentino Rossi e qualsiasi altro. Infatti al momento Schleck la rabbia ha detto: ah, qua mi ha tradito, mi devo fermare, ma poi dopo, ripensandoci, le vere scuse doveva darle Andy Schleck e dire: scusate, ho sbagliato io, cosa che invece ha fatto il suo team manager Bjarne Riis, dicendo: la bicicletta non aveva problemi, il mezzo meccanico ha reagito benissimo, il problema è che è stato Andy a commettere un errore. L'errore, come hai detto tu, è stato anche quello di Contador, che poi si è accodato alle scuse di che non si sa, perché non ha fatto niente quindi poteva starsene zitto e risparmiarsi. No, ma Pier Augusto, hanno poca personalità, noto i ragazzi, sti ragazzi. No, poi questo il linguaggio, lo sai, una cosa, scusami, se non so se sei d'accordo, perché anche tu qualche corsa l'hai vista e qualche giro d'Italia le hai viste da vicino. Questo il linguaggio non scritto, quando si è in due, poi io ho la maglia da leader, allora ti lascio vincere la tappa, ti lascio vincere la tappa se ho voglia, ma se ho voglia di vincerla, vinco, cioè, perché non è che diventa carogna chi non ti fa vincere la tappa che sì, non meriteresti di vincere. Invece qua si stravolge il concetto, cacchio, in maglia dovrebbe farmi vincere la tappa, non sta scritto da nessuna parte, non sta scritto veramente da nessuna parte. Cioè, se sono bravo, peggio ancora, come è capitato, visto che abbiamo citato Marco Pantani, la sua vittoria nel 2000 sul Mont Ventoux su Lance Armstrong, probabilmente, molto probabilmente Lance Armstrong, sapendo anche la storia, le vicissitudini del povero concesse, Marco, concesse la vittoria. Concesse. Dov'è che fece veramente una figura barbina, che in conferenza stampa disse sì, gli ho lasciato la tappa. Marco giustamente si arrabbiò, perché se lui, cioè, un regalo, si fa il regalo, non è che si rinfaccia, non è che si va poi a chiedere i soldi, capisci? Siamo ad una parliamo anche con un altro ascoltatore, Davide da Pisa. No, Davide da Pisa non c'è, mi spiace, i telefoni oggi fanno un po' di capricci, meno male che ci sei tu, dopo che nei giorni scorsi facevamo un po' fatica a reperirti in mezzo alle montagne. Parlami invece di Petacchi, che porta la maglia, dovrebbe portare, porterà la maglia verde a Parigi, cosa che non è successa molto spesso nella storia del ciclismo italiano, e il giorno dopo metterà la maglia verde in valigia e andrà a Padova da Parigi. Sì, hai detto tu la situazione del PETA. In questo momento il PETA sta scivolando nelle retrovie insieme a Torushov. Al momento la maglia verde ce l'ha proprio il norvegese, che ha qualche punto in più di Alessandro Petacchi. Petacchi adesso ha qualche problema in più, deve anche pensare non solo a Parigi, a vincere magari la tappa di domani che gli si addice, a vincere magari, non sarebbe male, anche la tappa di Parigi sui Campi Elisi, e cercare di conquistare questa maglia verde che nella storia del ciclismo, il ciclismo italiano ha vinto solo una volta, addirittura talmente tanti anni fa, negli anni 60 con Franco Bitossi, che la maglia non era verde ma era di colore arancione. Quindi sarebbe di fatto la prima della storia, no? Almeno verde. Almeno verde almeno è la prima della storia. La classifica punti, la classifica punti sarebbe la seconda. Sarebbe la seconda nella storia di tutto il Tour de France. Davide da Pisa adesso dovrebbe esserci. Sì, buonasera. Grazie per avermi dato la linea. Volevo intervenire brevemente su questo argomento e dicendo che io non sono molto d'accordo su questo, sul comportamento appunto che ha tenuto Contador in questa situazione. E, cioè, secondo me non è stato un comportamento da grande corridore. Il grande corridore non approfitta di errori o di situazioni, cioè approfitta di errori ma non approfitta di situazioni di questo genere per poter vincere una tappa. È vero che questi episodi si verificano spesso, però è anche vero che lanciare un attacco nel momento in cui si verifica una situazione di questo genere non è il massimo della lealtà, tutto questo. Beh, Davide, io capisco che possa piacere o non piacere, però anche questo è sport, no? Essendo un po' cinici, volendo essere un po' cinici, anche questo è sport. Poi io capisco quelli che, come lei, dicono non mi è sembrato il massimo dell'eleganza, però noto come nello sport questo falso fair play, che poi è un fair play un po' di plastica, stia prendendo piede in maniera eccessiva. È quello che stavamo dicendo soltanto con Pier Augusto Stagi, no? Pier? Sì, ma poi c'è un antecedente, no? Un antefatto. Il problema è che se questo gesto fosse così nato nel nulla, allora a tutti gli effetti per Contador sarebbe una macchia, ma invece c'è un precedente. Il precedente è la tappa di Arenberg, dove Contador è lì praticamente attaccato al carro di Cancellara e Andy Schleck, rompe un raggio della ruota e fa gli ultimi 2,5 km con la ruota tutta svirgolata e perde 25 secondi. Non l'hanno aspettato. Non l'hanno aspettato, sono andati avanti, ma com'è comprensibile che sia, insomma, perché altrimenti siamo sempre fermi. Questo Tour abbiamo visto molte chiacchiere e poca corsa. Speriamo oggi di vedere tanta corsa e nessuna chiacchiera, anche se l'episodio di Sastre mi lascia un po' perplesso sul fatto di non avere chiacchiere domani, ma le faremo domani con Pier Augusto Stagi. Grazie Pier Augusto. Grazie a te Carlo. Buon divertimento naturalmente nei GR, non ora, perché vi ricordo che quello delle 15 non andrà in onda, ma poi andranno in onda tutti gli altri del pomeriggio della sera, e vi racconteremo come questa tappa del Tourmalet sarà andata a finire. Tanto vi ringrazio, così come ringrazio Giorgio De Luca per il lavoro in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani alle 2:00.